27. Dal Daily Courant dell'8 maggio 1776. Il saluto del principe Thayendanegea al ministro delle colonie, Lord George Germain. Il giorno 6 appena trascorso, per la seconda volta dal loro arrivo in città, il commissario del Dipartimento per gli Affari Indiani, colonnello Johnson, e il principe dei Mohawk, Joseph Brant Thayendanegea, sono stati ricevuti dal ministro delle colonie. Al termine del colloquio ho avvicinato il colonnello Johnson per avere dettagli sull'incontro, ma egli non ha voluto trattenersi e ha invece pregato il suo segretario di farmi avere una copia del discorso che il principe ha rivolto a Lord Germain. Lo riporto qui, così come l'ho ricevuto, sperando di far cosa gradita ai nostri lettori. Fratello, così il principe Thayendanegea si è indirizzato al ministro delle colonie. Nel nostro ultimo colloquio ci hai risposto con poche parole, dicendo che ti saresti occupato dei reclami delle sei nazioni riguardo alle loro terre, in particolare quelle dei Mohawk, e li avresti risolti, che tutto questo si sarebbe sistemato con nostra piena soddisfazione non appena i disordini in America fossero terminati e che ti auguravi che le sei nazioni continuassero a comportarsi con quell'attaccamento al re che hanno sempre manifestato, nel qual caso potevano confidare nel favore e nella protezione di Sua Maestà. Fratello, noi ti ringraziamo per la tua promessa. Ci auguriamo di vederla mantenuta e di non restare delusi, come è accaduto così spesso, nonostante la calda amicizia dei Mohawk nei confronti di Sua Maestà e del suo governo. Essa è stata così tante volte ricordata dalle sei nazioni che la loro incapacità di ottenere giustizia è motivo di sorpresa per tutte le nazioni indiane. Fratello, il disordine che prevale in America e la distanza che ci separa dal nostro paese ci consente solo di dire che al nostro ritorno informeremo i capi e i guerrieri di ciò che abbiamo visto e sentito per unirci a loro nel prendere le misure più sagge per fermare questi tumulti. Fratello, presto partiremo per il nostro paese dopo essere rimasti qui a lungo. Ti chiediamo di non ascoltare tutte le storie che si possono sentire sul conto degli indiani, ma soltanto le decisioni che arrivano dai nostri capi e dai saggi del Concilio, che ti verranno comunicate dal nostro commissario. Appare evidente, nonostante il riferimento agli antichi trattati e alla calda amicizia, che anche gli indiani delle sei nazioni si sono conformati ormai alla nostra maniera di fare alleanze, non tanto in nome di un'astratta lealtà, ma piuttosto in vista di un guadagno. Ne prendiamo atto, considerandolo un segnale della loro progressiva civilizzazione, la quale, come ben sanno certi filosofi, non può che seppellire una certa purezza di spirito. Ciò che non capiamo, piuttosto, è come si sia giunti alla paradossale situazione nella quale Sua Maestà e il governo dovrebbero attendere la decisione dei capi tribù circa l'intervento indiano nei disordini delle colonie, quando ci risulta che tale intervento non sia mai stato richiesto e che siano dunque i capi tribù nella condizione di dover attendere un proclama di Sua Maestà per poter schierare i loro guerrieri tra le file dell'esercito. La differenza può apparire sottile, ma è in realtà capitale e nasce, crediamo, da un malinteso circa le parole del ministro, che ha domandato al principe Thayendanegea di preservare l'attaccamento degli indiani al loro re, con ciò non intendendo senz'altro formalizzare una richiesta d'appoggio militare. Non nascondiamo che le vicende americane non ci sembrano richiedere l'intervento di alleati dall'una o dall'altra parte. Come diceva Sallustio, vi sono alleati che è meglio non schierare. Gli unici indiani che ci auguriamo di veder combattere con le giubbe rosse sono quei Sohawk, di cui Londra ha tanto parlato negli ultimi mesi. Sono ormai due settimane che non si registrano delitti attribuiti a questi selvaggi, senz'altro meno civilizzati dei loro presunti fratelli, e svariate voci li vorrebbero catturati da una press gang e imbarcati su una nave della Marina in partenza per le colonie. Presto Londra saluterà anche gli indiani autentici. In capo a un mese, la delegazione guidata dal principe Thayendanegea salperà la volta di New York. Ci auguriamo che il loro impiego in battaglia non induca, anche oltre l'Atlantico, la feccia ai farabutti a commettere crimini e domandare riconoscimenti. Se non ricordiamo male, erano proprio travestiti da indiani Mohawk, i delinquenti che assaltarono le navi del porto di Boston per gettare a mare il tè della Compagnia delle Indie. Un simile spirito di imitazione ha già prodotto abbastanza turbamento. Non è il caso di soffiare sul fuoco. Panifex.